Hadith numero 34. Da Abu Sa'id al-Khudri, che Allah si compiaccia di lui, disse: ho udito dire all'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: chi di voi veda un'azione riprovevole, intervenga con la sua mano per farla cessare. Se non può con la sua mano, la biasimi con la sua lingua, e se non può con la sua lingua per mancanza di coraggio, la disapprovi con il suo cuore. Questo però è il minimo della fede. L'ha riferito Muslim.